L'hanno già fatto, un film che non hanno ancora fatto? Cosa hanno fatto? Oh, è stato fatto tutto, penso. No, magari no, assolutamente. Non hai una sceneggiatura pronta nel cassetto? No. Purtroppo non mi appartiene il cinema. Anche quando mi hanno proposto in Francia dei produttori, se hai un'idea la facciamo. Tutti mi dicono, dai, cavolo! Certo. E invece dico, guarda, no. Per spettacoli teatrali. Io ho visto un tuo film, se vuoi lo posso mettere su YouTube, ma non lo farò. Quale? È un cortissimo amatoriale, chiaramente fatto con gli amici. Perché ma mi fai gli occhietti, ma non capisco qual è. Arturo si diverte a riprendere gli amici, a recitare, a fare delle cose. Ah, sì, quando prima di YouTube, ecco, quindi tempi non sospetti. Mistero della cheesecake, esatto, quelle cose lì. Quando finivamo morti con le candele, accese però. Accese, esatto. Grazie Arturo Brachetti, se volete le informazioni su quello che sarà il tour in Italia, ma anche in Francia, in fondo ormai è tutto vicino, grazie al cielo, con aerei e treni tutto raggiungibile, brachetti.com per il sito. E io ti saluto con un messaggio, fra i tanti che sono arrivati, ma che piace molto anche a me. Ringrazio Gianluca per averlo scritto. Dice Brachetti, sei un gigante e non ti accontenti mai. Grande, ma sì, sei un grande italiano. Il riposo del guerriero. E anche in questa puntata del riposo del guerriero arriva il nostro gastronauta. Il gastronauta. Ciao Davide Paolini. Ciao a te. Allora, abbiamo parlato di cinema, di spettacolo, e credo che ci sia un connubio, no? Gastronomia e spettacolo, arte, beh, insomma anche un piatto è sempre uno spettacolo a guardarsi, spesso, dovrebbe essere. Bah, ultimamente devo dire che sempre di più c'è spettacolo in cucina, specialmente con negli ultimi 20 anni, come si è evoluta la cucina, prima con la nouvelle cuisine, poi con la fusion e quindi con la cucina molecolare, sicuramente la cucina è diventata spettacolo, anche perché i cuochi ormai, gli chef, anzi facciamo questo distinguo tra cuochi e chef. Gualtiero Marchesi dice sempre che per diventare chef bisogna essere cuochi e poi essere in grado di dirigere una cucina, quindi non tutti sono chef, secondo lui. È secondo un grado militare quello, per cui bisogna saperlo. Esattamente, è un grado militare e Gualtiero Marchesi ci tiene molto a fare questa distinzione. Le mostrine infatti sono rimaste. Sono rimaste, ci sono anche degli chef molto duri con i cuochi, con diciamo tutta la truppa, con tutta la truppa che hanno sotto. Ma dicevo che è diventato spettacolo soprattutto perché ormai gli chef sono diventati delle stelle, delle star. Ormai hanno formato uno star system importante. Io dico sempre che io nel giro di qualche mese, non di qualche anno, probabilmente le letterine non cercheranno più, o le vallette non cercheranno più i cantanti o i calciatori, ma cercheranno gli chef, perché ormai sono sempre in televisione, lo si vedono questi giocolieri delle padelle, questi... E poi appunto hanno la sicurezza che insomma potranno mangiare potranno mangiare molto bene, però ce li vedi, io li chiamo i giocolieri delle padelle, no? Sì. Perché se ne vedono alcuni di questi personaggi sempre più in televisione, che in realtà secondo me non fanno da mangiare, ma fanno burlesque, fanno spettacolo burlesque gastronomico, proprio, sì. Secondo me proprio fanno degli spogliarelli gastronomici, cioè spogliando la frutta, spogliando la verdura, spogliando la carne, insomma fanno questo, e quindi è spettacolo, ormai il cibo è spettacolo. Devo dire che negli ultimi 10 anni, prima negli Stati Uniti, poi in Inghilterra, soprattutto in Inghilterra, dove ci sono 2 o 3 chef televisivi, secondo me molto bravi, veramente, che sanno fare spettacolo, a cominciare da Gordon Ramsay e da tanti altri che sono nati per fare quello spettacolo. Poi di Gordon Ramsay ho qualche reticenza come cuoco, perché ci ho mangiato, quindi meglio televisivo che chef di ristorante. Comunque questa è una mia parentesi. Ecco, senti, noi spettatori del ristorante, che rapporto dobbiamo avere con la cucina? Possiamo andarla a visitare? Possiamo chiedere di conoscere lo chef, per esempio? Insomma, che ruolo possiamo avere attivo? Beh, sempre di più. A volte c'è imbarazzo, no? Ma non direi, perché sempre di più le cucine si sono aperte, appunto perché gli chef hanno capito che fanno spettacolo. Ci sono ormai decine di ristoranti che hanno il vetro e tu vedi attraverso il vetro. Ma la cosa più interessante che è nata negli ultimi anni è il tavolo dello chef, dove tu puoi mangiare stando in cucina, e ti faccio un nome di una veramente di una posizione straordinaria per vedere lo spettacolo, ed è a Varese a Villa Panza, dove c'è un cuoco che si chiama Matteo Pisciotta, il quale, questo ristorante si chiama Luce ed è in una villa che ha preso il Fai, addirittura dentro c'è un museo d'arte americana straordinario di un grandissimo collezionista. Ebbene, ha costruito Matteo ha costruito sopra la sua cucina un palco di cristallo dove tu puoi mangiare, un tavolo da quattro, quindi tu stai sopra la cucina e vedi tutto quello che succede, tutti i movimenti, e quindi vedi lo spettacolo. Ma tanto per continuare, ad esempio Cracco a Milano c'ha un oblò, io lo chiamo oblò, sembra di essere in una nave perché tu stai dentro chiuso e vedi i movimenti della cucina. Quindi ormai il tavolo dello chef una è sorta molto di diffuso. Grande fratello in cucina, sì, cioè, poi, solo che l'occhio siamo noi ovviamente. Addirittura ci può fare anche il brunch al tavolo dello chef al Four Seasons a Milano. C'è un tavolo anche lì dove tu vedi in cucina tutti i movimenti e dove avviene la domenica il brunch. Quindi spettacolo su spettacolo. Però attenzione, all'estero il tavolo dello chef era nato molto prima. Da tantissimi anni c'era il tavolo dello chef. Quindi sicuramente molto prima. Poi ci sono, se vogliamo, la cucina giapponese è uno spettacolo. Sì. Perché i veri grandi cuochi giapponesi cucinano. Io direi che tagliano, perché lì c'è l'arte del taglio, sì, di fronte a te, e quindi c'è questo bancone con pochi posti, e diciamo che veramente i grandissimi chef giapponesi cucinano solamente così per poche persone. Quindi tu paghi diciamo il conto finale, ma vedi due cose: vedi lo spettacolo e poi mangi anche, quindi sicuramente è uno spettacolo. Quindi è una cosa che esiste da tempo, lo spettacolo dello chef. Io ho detto, ironizzato prima con la televisione, perché trasportando in televisione mi sembra, come posso dire, molto falso, cioè tutto preparato, tutto ripetuto, perché di solito sono registrate queste cose, quindi non è più veritiero come in diretta succede mentre tu vedi di fronte che cucina il cuoco. Mi viene in mente il pizzaiolo, no? Che da sempre cerca di far volare la ruota di pizza, la pasta, per allungarla e prepararla in teglia, e tu lo guardi e poi dici la pizza è buonissima, poi magari non è vero, però siccome l'occhio insomma è stato appagato. Tu pensi che sia perfetta, poi magari lui vedi solamente la fase finale, cioè vedi, non vedi quando prepara però il preparato, non vedi quando prepara diciamo il panetto che poi deve tirare, quindi c'è una parte, ma sicuramente lo vedi. Diciamo che anche, come posso dire, le asdore romagnole emiliane ti fanno la pasta in diretta, anche quello, sì, secondo me è una forma di spettacolo che c'è sempre stata, cioè, sono, esatto, quindi non è lì, non è nuova per niente, no, ecco, diciamo che è entrata un po' nei posti dove prima invece era tutto intoccabile. No, le donne Mattarello sono sempre esistite, quindi sicuramente. Mi viene in mente un fatto particolare, che c'è un posto che si chiama il Merlo a Camaiore, dove è bellissima, c'è una specie di installazione con tanti mattarelli diversi di epoche diverse messe in un quadro, e la madre del proprietario appunto è una sdora che fa la pasta diciamo in diretta, e si vedono queste cose messe diciamo come un quadro, come un'installazione. È molto bella questa cosa, perché secondo me l'hanno messa casualmente, in realtà poi si è trasformato in un qualcosa che tu ammiri e pensi subito, qui si fa la pasta fatta in casa. Ecco, mi viene in mente tra l'altro la bamba dei Babbi Natale, il film di Aldo, Giovanni e Giacomo. A un certo punto lei si fa aiutare a fare la pasta proprio al comando di polizia, e per stenderla usano il manganello, ecco perché insomma, ma, come una bottiglia si usava anche una ma volta. Io devo dire che la cosa più straordinaria che ho visto però in un film di cucina è Bere e Mangiare Uomo Donna, dove c'è questo cuoco di Taiwan che cucina tantissimi piatti in diretta, e lì veramente io credo che sicuramente sarà stata una controfigura che ha fatto il tutto, perché c'è un'arte del taglio straordinaria. Per me rimane il più bel film dove il cibo è di sottofondo, però dove anche la cucina emerge. L'ho trovato veramente straordinario quel film lì, me lo sono rivisto tantissime volte. Ecco, una parte degli ultimi minuti volevo dedicarla invece al vino, quindi alla visita di quelle che sono tutti poi le cantine dove si producono i vini, che poi forse ti porti sempre a casa, perché hai visto la cantina, guai a non comprare il vino, anche se magari non è eccezionale. Ma io non voglio non voglio polemizzare né deluderti su questo. Io credo che il vero spettacolo invece sia nei laboratori dei casari, di coloro che fanno i salumi, dei pasticceri. In fondo in cantina cosa vedi? Vedi le stesse cose, ormai sì, sono tutti uguali. Vedi distese di barrique che io detesto. Poi quando vedi l'inox, per esempio, sì, è ancora peggio, sì, perché sì, è freddissimo. Vedi fermentini, cioè vedi, sì, ora ci sono gli archistar che fanno, che progettano queste cucine, sì, queste cucine, sì, queste cantine, però secondo me sono un disastro perché non sono funzionali per niente. Diciamo che è uno spettacolo nel vederle, poi non so chi ci lavora, se pensano come la pensiamo noi che sia uno spettacolo. Però le cantine secondo me sono tutte uguali, i vigneti sono diversi perché lì c'è un paesaggio diverso, sì. Quello è il vero spettacolo del vino, quello è il vero spettacolo del vino, la vendemmia è il vero spettacolo del vino, più che la cantina. Quindi io, così, quando mi chiedono di andare a visitare una cantina ci vado, però non è che sono molto affascinato da questo fatto, molto meglio fuori, perché vedi delle cose, vedi paesaggi sempre completamente diversi, vedi delle cose strepitose, perché sicuramente anche i grandi vini nascono in posti bellissimi, con dei paesaggi che veramente ricordano. Qualche volta gli architetti rovinano anche questi paesaggi con queste cantine, chiuso la parentesi. Devo dire che comunque è un'iniziativa anche di marketing, perché tu, facendo e mostrando la cantina, fai assaggiare i tuoi vini e insomma è difficile resistere alla tentazione di non portarsi a casa almeno una bottiglia. Sì, però quando bevi quel vino che non ti piace, l'architetto a quel punto lì può fare ben poco. Grazie Dario De Paolini, sentiamo la settimana prossima. Alla prossima. E continuiamo questa versione estiva del Riposo del Guerriero invitando come sempre Fables e parlando di guerriglia marketing. Ciao Fables. Ciao Stefano, buongiorno. Allora, internet e il cinema. Beh, immagino che le due cose siano molto vicine ormai per promuovere e promuoversi. Ah sì, assolutamente, guarda, soltanto buttando un occhio agli Stati Uniti vediamo che praticamente ormai ogni produzione cinematografica è preceduta comunque sia da una campagna o di guerriglia o di viral marketing, e poi perché comunque sia tra i due c'è un certo feeling, proprio perché insomma il cinema di per sé racconta delle storie attraverso i film, e il guerriglia marketing molto spesso cerca di riprendere queste storie per promuovere appunto quella determinata storia. E un caso interessante per esempio c'è stato lo scorso 13 marzo per la promozione del film Limitless, una sorta di thriller, un action thriller diretto da Neil Burger. Che cosa succede? Che noi vediamo un video con un asiatico al centro di Times Square che si fa riprendere da un suo amico con un iPhone. Che cosa succede? Che sopra l'iPhone è attaccato un trasmettitore, mentre la persona che viene ripresa, che sta appunto parlando, ha in mano un'antenna ricevente, insomma. Ci spiega che di lì a poco questo filmato che lui sta registrando verrà proiettato su tutti quanti i monitor di Times Square accanto ai quali lui andrà a camminare. Finisce il breve video in cui lui viene appunto filmato, i due iniziano a passeggiare. A un certo punto che succede? Lui ogni volta che si ferma accanto ad un monitor a Times Square, noi rivediamo che le immagini su quel monitor cambiano e vediamo le immagini che lui ha precedentemente registrato. Ecco, loro fanno credere quindi di aver inventato un apparecchio capace di fare in modo di trasmettere le immagini del proprio telefonino su schermi esatto, diversi. In questo caso appunto sono a Times Square, dove gli schermi sono enormi e attaccati ai grattacieli, piuttosto che anche, mi sembra di vedere anche schermi all'interno dei negozi, no? Sai, quelli che vendono i televisori, per cui vedono nello schermo del televisore nel negozio la sua faccia, insomma, la sua ripresa col telefono. Sì, o dei monitor enormi, insomma, magari sopra le vetrine all'ingresso di un esatto, grande negozio, e tutti ci sono cascati cercando di acquistare questo aggeggio. O più che altro di capire come era possibile che questa persona era riuscita a fare questa cosa. Ma tu pensa, in 5 giorni, senti che numeri, 3.500.000 persone hanno visualizzato il video. In più, naturalmente, tantissimi commenti, perché chiedendosi chissà sì, come avrà fatto, sì, quale magica tanti, tecnologia. Certo. Sì, tanti avranno detto ovviamente, ah no, ma è finta, è impossibile, insomma, i commenti più disparati. Infatti era finto e impossibile. Era finta e impossibile, perché passano 5 giorni, lo stesso utente che aveva caricato il primo video ne carica un altro, che era praticamente la stessa ripresa del video precedente, sì, però con i 30 secondi precedenti. Ah, i 30 secondi precedenti, come se ci fosse, diciamo, dietro le quinte. Questa persona asiatica parla e dice, ah ecco, mostra una pillola alla telecamera dicendo, io ogni mattina mi sveglio e prendo una pillola di NZT, che è una pillola che mi permette di sfruttare al 100% le mie capacità cerebrali. Ah certo. Andando poi a vedere che succedeva, che parte il video, lui, vediamo quello che avevamo visto nel primo video, termina il video e in maniera, anche se a dire la verità un po' brusca, parte il trailer del film Limitless, che parla appunto della, di questa esperienza che le persone avevano con questa pillola. Ecco, quindi era un modo per pubblicizzare poi questo film. Esattamente. Ok, un'altra cosa curiosa invece, non sai, ogni volta che esce un nuovo film horror si fa... Perché su quelli è un po' più facile a volte lavorare, sì, no? E poi soprattutto si dice che ogni volta l'ultimo film horror in assoluto, quello che farà più paura. Certo, chiaro, sì, sempre così. Esatto, poi dall'altro il viral marketing a livello storico si ricorda come, non so, Blair Witch Project per esempio fu in assoluto il primo video forse dove... Quello è vero però, insomma... Sì, ed era il 1999, certo. Con la sparizione dei le persone, sì. dei filmmaker che poi, sì, insomma erano i protagonisti del film stesso. Invece a Bollywood è la Hollywood indiana, diciamo. Esatto, diciamo la Hollywood della lingua hindi, associazione tra Bombay e Hollywood, è nata invece di una sorta di provocazione per l'uscita del film Funk 2, sequel dell'omonimo film del 2008. Il regista Gadkar ha portato avanti questa provocazione: se qualcuno di voi riesce a terminare la visione del video senza superare un determinato numero di battiti cardiaci, vince 7.500 euro. Che succede? Che questa attività qua sarebbe stata in qualche modo filmata, vale a dire che lo spettatore da solo in una sala del cinema veniva ripreso, uno per controllare ovviamente i battiti cardiaci, due per vedere se non chiudeva gli occhi, e tre, perché all'esterno del cinema era possibile vedere in streaming quello che stava succedendo all'interno. Però qui, diciamo, c'è il trucco, nel senso che lui era un personaggio regista forse un po' recidivo, perché già per la promozione del precedente film aveva cercato di fare in qualche modo una cosa analoga, ma pilotando la lista dei partecipanti, che erano in qualche modo finti. Invece questa volta pare che l'esperimento sia andato, diciamo, a buon fine, vale a dire che realmente ci sono stati dei partecipanti che si sono messi in qualche modo a disposizione per questo esperimento. Ma si sono fatti quindi misurare i battiti cardiaci? Si sono fatti misurare i battiti cardiaci per vedere se realmente il film facesse paura, ma in molti, insomma, sembra che il film era non si sono spaventati abbastanza. Ecco, tra l'altro mi immagino un film horror bollywoodiano, sinceramente me lo immagino non proprio, ecco, magari mi sbaglio. Per altri sensi, potrebbe essere. E ancora cinema, quindi ancora cinema, sì. Guarda, invece passiamo dal cinema alle serie televisive, sì. In particolare per quella che è rivolta alla promozione di Romanzo Criminale, narrante le vicende della banda della Magliana. Ma questo vi riguarda? Eh sì, questo ci riguarda come, diciamo, come realizzatori, ecco, se vogliamo, come... Bravi. Coloro che sono andati sul campo. L'avete passata, insomma, difficile, eh? Eh sì, questa è stata un'operazione, diciamo, se vogliamo, anche abbastanza complicata, perché comunque sia l'argomento era di per sé delicato. Sì. Che cosa è successo? Che all'alba, tra il 14 e il 15 ottobre del 2008, vengono posizionate di fronte nei pressi del Palazzo della Civiltà e del Lavoro all'Euro, quello che viene conosciuto come il Colosseo Quadrato, vengono posizionati quattro busti rappresentanti quattro protagonisti della fiction romanzo criminale. Ecco, quindi non sono i veri. Non sono i veri. Sono i veri, gli attori. I veri criminali, sono gli attori, il libanese, Dandi, Freddo e il Nero. Vale a dire i personaggi poi in realtà creati dal romanzo di De Cataldo, sì, alcuni anni prima. Che succede? Che nonostante tutto c'era questa, secondo me, notevole aspetto, le persone che per la prima volta guardano lì quelle statue non capiscono realmente la differenza, ma associano quei busti lì ai busti dei veri criminali. Quindi crede che siano stati dedicati dei busti ai veri criminali. Ai veri criminali, quindi naturalmente puoi immaginare comunque in una città come Roma che ha vissuto... Certo. Continua a vivere quei fatti lì. Beh, tutta l'Italia in fondo in qualche modo ne è stata sconvolta, tant'è che la polizia credo che li abbia fatti rimuovere, no? La cosa polizia dopo un po', con grazie, diciamo, all'intervento di Alemanno, che se vogliamo ha facilitato anche l'aumento di popolarità e di notiziabilità attorno a questa attività qui, ha portato alla rimozione, non al sequestro, ma semplicemente alla rimozione delle statue. Ecco, tra l'altro, diciamo, avendo confuso ovviamente le due cose, ci sta il fatto che fossero rimosse, ovviamente, pensando che si potesse trattare veramente dei criminali. E comunque si è servito perché se ne è parlato, perché tutti i giornali ne hanno parlato. Sì, assolutamente, ma soprattutto dopo pochissimo tempo dall'installazione delle stesse statue. L'installazione delle statue è avvenuta più o meno la mattina presto, e dopo poche ore praticamente le maggiori organi di formazione in Italia avevano battuto la notizia, ecco, sia sul locale e altri anche sul nazionale. Siccome una cosa so che riguarda, insomma, la tua struttura, Fabris, volevo sapere se poi avete avuto qualche problema dal punto di vista legale o poi tutto è filato liscio. È filato tutto liscio. Bene, sono contento. Bravi comunque per l'iniziativa, ovviamente. Yeah. Grazie Fables, buon Ferragosto e ci sentiamo poi domenica prossima. Grazie Stefano. E noi continuiamo parlando di iniziative. Stefano Bottoni, buona domenica. Buona domenica da Ferrara. Allora, infatti parliamo del ormai osannato Ferrara Basker Festival. Siamo arrivati a quale edizione? Intanto grazie dell'osannato, nel senso che mi sento leggermente in impasse, ma con tanto senso della falsa, come dire, della falsa modestia. E va la 24esima edizione, credo che sia questa. Ci sentiamo non vecchi ma anziani, questo è un piacere, perché semplicemente nel 1988-87, quando andavo a presentare questo progetto, parlare di musicisti di strada era come parlare di missili nel Settecento. Quindi c'era questa forma di incredulità, nonostante ci fossero esempi pratici a San Gimignano, ad Amsterdam, al Covent Garden, in Piazza Dam, ad Amsterdam. Sì, insomma, dappertutto, a parte che in Italia, no? Però devo dire che l'atteggiamento ormai degli italiani verso chi, in generale, gli artisti che guadagnano a cappello, cioè quelli che guadagnano con il cappello o qualunque altro oggetto che serve a raccogliere i soldi, sono sempre più rispettati, grazie al cielo, anche nel nostro paese. All'inizio venivano visti un po' male, invece ormai, forse anche perché abbiamo imparato a viaggiare di più e quindi guardare di più all'estero, abbiamo imparato anche noi ad averne rispetto, scoprendo anche molto spesso degli artisti davvero straordinari. Certo. Beh, quello che hai appena detto è molto, molto significativo, molto importante, perché stiamo parlando non nel Medioevo prossimo, che tu, 20 anni fa. Quindi, certo. Tutto sommato parliamo del rispetto dell'artista, perché se lo stesso artista sul palco del Teatro Sistina si trova in Piazza Navona, sono due ruoli completamente diversi. Io ricordo un episodio molto piacevole, di Severino Gazzelloni, molto il flauto d'oro della musica italiana negli anni 70, che un giorno suonò sotto gli androni dei portici della città Dovera e nessuno lo considerò. Questo è raccontato dal maestro Severino Gazzelloni. E alla sera, quando era veramente in auge, c'era il teatro stracolmo, strapieno, con un bis su bis. Lui in pratica aveva fatto, in maniera talmente da grande elegante signore, lo stesso concerto nella mattinata nelle strade, nelle piazze della stessa città. Quindi c'era il luogo deputato. Probabilmente Ferrara ha avuto il privilegio di crederci prima di altre città, ma con tutto il rispetto del credere in una cosa mai fatta prima. Ecco, se non ci siete mai stati, andate a Ferrara proprio in questi giorni, ripeto, dal 20 di agosto fino al 28. Tra l'altro quest'anno la nazione ospite d'onore sarà l'Olanda, e diciamo che ad Amsterdam di artisti da strada in generale, quindi non soltanto buskers ma anche altro tipo, quindi non solo musica, voglio dire, sono proprio tanti. Cioè, per chi è stato ad Amsterdam sa perfettamente che ogni piazzettina ha sempre un artista da ammirare e da guardare. Beh, diciamo che se mi permetto una battuta al reale, nel senso, sì, l'esperienza che ho, che abbiamo, che stiamo acquisendo qui a Ferrara, stiamo notando che in base, perché così è oggettivamente, quindi non è tanto un'osservazione critica ma è un dato di fatto, in alcune città, in base alle amministrazioni comunali, in base ai sindaci, possono cambiare o stanno cambiando anche i posizionamenti degli artisti di strada. Faccio un esempio tra i più eclatanti che mi vengono sempre riferiti. Sì. A Barcellona, sulle Ramblas, che sono il luogo storico dell'arte di strada, dicono che non si può più suonare per strada. Ci sono solo i mimi, che sono, come dire, silenziosissimi, e i venditori di uccellini. Chi vuole sentire un po' di musica deve andare alla Barcelloneta, che comunque vuol dire 10 km fuori dal percorso. Vuol dire che in pratica l'arte di strada è sempre vincente, perché aggrega. C'è questo aspetto socializzante. Mi prendo una battuta detta un giorno da una signora che mi disse: Bottoni, questo festival è utile come l'autobus, è un servizio pubblico come l'autobus. E rimase così, dice, in che senso? Perché, come dire, è un servizio, perché serve per